Il ciclo delle piccole donne, composto da quattro volumi scritti da Louisa May Alcott, fanno parte delle molte opere misconosciute e sprezzantemente catalogate come romanzi per fanciulle in senso diminutivo. Leggendo Le piccole donne con occhio e cuore liberi da pregiudizi, tuttavia, si scoprono messaggi peraltro molto chiari sull'indipendenza e sull'esercizio del libero arbitrio esercitato dalle donne. In questo caso specifico è eclatante il fatto che Jo, la secondogenita delle quattro sorelle March protagoniste, rifiuta il matrimonio con l'aristocratico Lori. Un matrimonio altolocato, a quell'epoca, rappresentava la massima aspirazione per ogni ragazza. Ma Jo vuole seguire il suo impulso e divenire scrittrice, mantenendosi da sola come istitutrice sul modello delle eroine create dalle contemporanee inglesi sorelle Bronte. L'autrice della quadrilogia, scritta nell'arco di un ventennio, è composta da Piccole donne crescono, Piccoli uomini e I figli di Jo, è Louisa May Alcott, americana di Filadelfia, nata nella prima metà dell'Ottocento, attivista politica, femminista e figlia di una suffragetta. Lei stessa, sostenitrice dei diritti delle donne e dell'abolizione della schiavitù, lavorò come domestica e governante fin da molto giovane per aiutare le precarie condizioni della famiglia. Il padre aderiva a un movimento trascendentale e per un periodo la famiglia Alcott fece anche parte di una comune che oggi definiremmo comunità spirituale di stampo New Age, la quale predicava l'amore e il rispetto per la natura. Quindi, nel suo capolavoro, Le piccole donne, Louisa trasfonde i suoi ideali di solidarietà e sostegno tra donne nella figura della mamma e delle quattro sorelle ispirate alla sua stessa famiglia, che mai per un momento vacillano nel loro rapporto di mutuo sostegno e amore, nemmeno durante le difficoltà e la solitudine provocata dalla guerra. Inoltre, crea cinque figure, sei con la governante, di donne forti e indipendenti, inclusa la piccola Amy, che, sebbene debole e malata, ha comunque un ruolo di grande spessore spirituale. Louisa è contemporanea di un'altra grande voce della letteratura americana, Emily Dickinson, e come lei muore giovane, lasciandoci purtroppo pochissima produzione letteraria. Nel suo saggio Il secondo sesso, la filosofa francese Simone de Beauvoir sostiene che le scrittrici dovevano talmente lottare per imporre il proprio lavoro in un universo maschile che quando infine ottenevano un riconoscimento erano praticamente esauste, prosciugate nel corpo e nell'anima. E laddove la carriera di un autore cominciava finalmente a raccogliere allori, verso i 50 anni, quella di un'autrice finiva perché il suo corpo non aveva più energia per proseguire. La Scuola delle Donne è lieta di proporvi questa quadrilogia tenera, appassionata e profonda nell'antica edizione di Corticelli del 1941 che non cita il O la traduttrice. Da Devana, buon ascolto.